voci di sirene per la strada e terrore tra la gente. È un disastro per le Cinque Terre. Centinaia di sfollati mentre in alcune zone manca luce, acqua e gas. Si scava nel fango, volontari, militari, forze dell'ordine impegnati nei soccorsi, interrotti molti ponti, strade e ferrovie. Sorpresi da un evento eccezionale, in tanti sono caduti senza poter reagire. Con la vita l'incoscienza della civiltà moderna. La furia dell'ambiente è incontenibile, rimane solo ricordare quella gente.